Bentrovati a questa nuova puntata di Soul Time sulle frequenze di Radio Wombat. Abbiamo in studio un ospite speciale che non parlerà mai e sta giocando ai giochini sul telefonino mentre io parlo al microfono. Partiamo quindi con questa nuova puntata dopo le presentazioni con un cantante di nome Rufus Thomas. Abbasso un po' la base. Rufus Thomas è un cantante statunitense nato nel 1917, scomparso nel dicembre del 2001, e la sua carriera è durata oltre 50 anni, passando da rhythm and blues arrivando fino al funky, ed è stato, nota di colore, il primo DJ a trasmettere nella radio nera di Memphis l'esordiente Elvis Presley. Tra le curiosità che si hanno anche su Rufus Thomas è che a Porretta Terme, sede del famosissimo festival italiano di musica soul, c'è un parco a lui intitolato. Ci andiamo ad ascoltare uno dei pezzi più conosciuti di Rufus Thomas, che si intitola Walking the Dog. Mary Mac, dressed in black, silver buttons all down her back, high low, tipsy toe, she broke a needle and she can't sew. Walking the dog, yes, a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. I asked my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumped so high, he touched the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog, just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Mary, Mary, quite contrary, tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells, pretty maids all in a row. Walking the dog, just a walking the dog. If you don't know how to do it, show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Oh, oh. Just a walking. Just a walking. Just a Questo era Rufus Thomas con la sua hit Walking the Dog. Altra curiosità su Rufus Thomas è che è il padre della cantante Carla Thomas, con la quale ha inciso diversi brani. Quindi rimanendo in tema casa Thomas, ci ascoltiamo Carla e Rufus Thomas con questo brano che si intitola 'Cause I Love You. Where you lied about Ok, e questo era il brano Cause I Love You di Casa Thomas con Carla e Rufus. Proseguiamo la selezione musicale con un vinile del 1967 inciso dai The Metros su etichetta Boss Records. Questo pezzo si intitola Push a Little Harder. You say me like an earthquake. You got me walking on air. You got me pulling out my hair. It hurts me like a toothache. Every time I think about you, girl, when I'm without you, nobody has to tell me. Cause I know what I have to do. Cause you still love the one girl, and I'm just number two. So I got to push a little bit harder. I've got to push a little bit harder. I've got to push a little bit harder. I've got to push, girl. Push, girl. I've got to push. Yeah, I just gotta keep on pushing. Yeah, I got to make you mad, baby. Yeah, that's why I got to push, girl. He might as well forget you, cause I won't stop trying until I made you mad. I don't know how I let you upset my nerves. Ok, questi erano i The Metros con Push a Little Harder. Il prossimo brano invece che ci ascoltiamo è di Senator Jones e si intitola Do You Love Me? I'm the right kind of a guy for you. I'm the kind that will be true. I fulfill your heart with desire. I'll be the one to light your fire. Do you love me? Yes, I do. Do you love me? I'll always be true. Do you love me? I work day and night. Do you love me? I get blisters in my hands. Do you love me? I buy your television. Do you love me? I get you everything. Do you love me? Yes, I do. Ok, e dopo Senator Jones ci andiamo ad ascoltare un brano degli United Four che si intitola Honey Please Stay, un brano precedentemente mai rilasciato su vinile ed è stato stampato per la prima volta dopo tanti anni nel 2012. Quindi ci ascoltiamo gli United Four con Honey Please Stay. In studio, dopo esserci ascoltati di The United Four con Honey Please Stay, passiamo invece alla voce di Barbara Stephens. Barbara Stephens è una cantante americana che ha passato la maggior parte della sua carriera come cantante solista presso la Satellite Records, che più tardi diventerà la famosissima Stax Records, registrando diverse hit come The Life I Live e Wait a Minute, ed è stata anche cantante in due band che erano i The Gardenians e i più famosi The Deltons. Ha interrotto la sua carriera durante il 1971. Ci ascoltiamo, l'abbiamo citato prima, questo brano di Barbara Stephens che si intitola Wait a Minute. Oh, wait a minute. Oh, wait a minute. Oh, don't you move. Ok, dopo la voce straordinaria di Barbara Stephens ci andiamo ad ascoltare quest'altra ristampa del 2012 e ci ascoltiamo un'altra grande voce, quella di Shirley Turner, con questo brano che si intitola I Wish You the World of Happiness. Cutugno ci annuncia la rubrichetta L'America sta qua. Anche questa settimana vi sorbite una cover dei Temptation, che si fanno la cover da soli, o meglio l'adattamento di un loro brano famosissimo che si intitola My Girl, brano strafamoso stampato su etichetta Tamla Motown, etichetta ricordo storica di Detroit, e in questo caso ci ascoltiamo il loro adattamento in italiano di My Girl, che per l'occasione diventa solamente lei. Barbados, Ok, rieccoci in studio. Dopo aver ascoltato i Temptation che inneggiavano in lingua italiana a solamente lei, rimarrei sempre in casa Tamla Motown, quindi sempre a Detroit, e ci andiamo ad ascoltare uno dei singoli più famosi in assoluto della musica soul e sicuramente uno di quelli che ha raggiunto maggior successo commerciale. Il brano in questione si intitola Soul Man ed è una canzone cantata dal duo soul statunitense Sam & Dave. Il brano fu scritto da Isaac Hayes e David Porter e fu pubblicato nel 1967. Il coautore Isaac Hayes trovò l'ispirazione per Soul Man nel tumulto della African American Civil Rights Movement del 1960 e nei durissimi scontri di protesta che avvennero proprio a Detroit durante il luglio del 1967. Infatti notò Ice che i residenti neri della cittadina del Michigan avevano scritto sui muri dei palazzi che non erano stati distrutti proprio la parola soul. Quindi direi di andarci ad ascoltare questo brano famosissimo che è di Sam & Dave e si intitola Soul Man. Questa era Soul Man. Proseguiamo con la musica. Il prossimo brano che ci ascoltiamo è cantato dai The Sapphires e si intitola Baby I've Got Me. The Sapphires. Baby, I think of you all the time. All the time. Even questi erano The Sapphires con il prossimo brano. Ci andiamo ad ascoltare Lonnie Youngblood è nato in Georgia nel 1941 ed è un sassofonista per l'appunto americano ed è ricordato per aver registrato con Jimi Hendrix. Quindi ci ascoltiamo questo suo brano che si intitola Turn Back the Hands of Time. Oh, darling, I'm so lonely without you. Can't sleep at night, always thinking about you. If I had a chance, start all over again, I would be wishing today on a four-leaf clover. You would be the last thing on my mind if I could turn back the hands of time. Oh, baby, all right. Oh, darling, I can't hold out much longer, but the pain is getting deep, Lord, and the hurt is getting stronger. I will be all alone till the day I die. Who have a love so divine if I could turn back the hands of time. Oh, baby, oh, yeah. Woo! Ooh, listen, girl, cause I love you. Let me come back home. Your love's been so good to me, darling, without I realize I can't go on. Yeah, but I had to make my life complete. I have one more chance, but have my love so sweet. You would be the last thing on my mind if I could turn back the hands of time. Oh, oh, baby, all right. Darling, without I realize I can't go on. You're the other hand to make my life complete. I have one more chance, but have my love so sweet. You would be the last thing on my mind if I could turn back the hands of time. Oh, baby, baby, all right. Turn back the hands of time, all right. Got to turn back the hands of time. E questa era la voce e il sassofono di Lonnie Youngblood. Il prossimo brano, che è già pronto qui sul giradischi, è di Gino Washington, un cantante statunitense dell'Indiana, nato nel 1943, che ha rilasciato 5 album con la The Ram Jam Band tra il 1966 e il 1969. Ci andiamo ad ascoltare proprio un brano di questo periodo di Gino Washington e The Ram Jam Band, che si intitola If This Love, tra parentesi I'd Rather To Be Lonely. Gino Washington. Hear me, girl. You tell me you love me, but you've been seen with somebody else. Hear me, girl. You tell me you want me, but I'm sitting here all by myself. If this is love, if this is love, keep playing another one of her games. Somebody tell me, is the girl real? Or she trying to destroy this love that I feel? Questo era Gino Washington in una cover non molto conosciuta ma altrettanto valida di un brano famosissimo della scena Northern Soul che gli amanti conosceranno benissimo come il brano dei The Precisions che si intitola per l'appunto If This Is Love. Quindi la puntata sta per concludersi con il prossimo brano. La nostra ospite silenziosa ci ha suggerito un connubio tra il punk e il soul. Ci ascoltiamo questa cover di Stand By Me, è un brano del 1961 famosissimo di Ben e King, e ci ascoltiamo questa versione qui fatta dai Pennywise, Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, well, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Just as long as you stand by me. When the sky that we look upon tumble and falls and the mountains crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh won't you? Stand by me, oh won't you stand, by me? Darling, darling, stand by me, oh won't you? Stand by me, oh won't you stand by me? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, I won't cry, no, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you fucking stand by me. So Ok, e dopo questi suoni inusuali per Soul Time, ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano perché la trasmissione sta per concludersi. Ci ascoltiamo la versione strumentale di un brano famosissimo della musica soul, che è di Marvin Gaye e Tammi Terrell. Il brano si intitola Ain't No Mountain High Enough, e ci ascoltiamo la versione strumentale dei Funk Brothers, in maniera tale che l'ospite silenziosa possa canticchiarla stile karaoke. Ci sentiamo mercoledì prossimo alle 19 su Radio Wombat. The Funk Brothers come ultimo brano. Arrivederci. Thank you.